Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A me gli orologi non dicono un granché. Io lo uso da quando ho iniziato a lavorare, però piacciono a mio padre. Si può dire, anzi, che sono la sua unica vera passione. Ciao, sono Matteo, ho 30 anni, sono sardo ma vivo in Toscana da 7 anni a Capraia Fiorentina e faccio il rappresentante. Questo orologio che ho qui fu visto e acquistato dal tuo grande bisnonno durante la Prima Guerra Mondiale. Fu comprato in un negozio di cianfrusaglia a Knoxville, nel Tennessee. Prodotto dalla prima ditta che abbia mai fatto orologi da polso. Fino allora si portavano solamente orologi da taschino. Sì, è stato comprato dal valoroso patriota Erin Coolidge il giorno in cui si è imbarcato per Parigi. Il tuo bisnonno aveva questo qua durante la guerra. Non se n'è mai staccato fino alla fine dei combattimenti. E dopo aver fatto il suo dovere, tornò a casa dalla tua bisnonna, si tolse l'orologio dal polso, lo mise in un barattolo da caffè ed è lì che è rimasto finché tuo nonno Dan Coolidge non fu chiamato dal suo paese perché andasse di nuovo a servire la patria. Sono le 16. No, anzi, facciamo così, non ve lo dico l'ora. Guardatevi il polso, guardate l'orologio che avete al polso, guardate che ore sono e poi cercate di ricordare che storia ha quell'orologio lì. Oggi parliamo di quello. È una cosa piccola, è una cosa che sembra banale, ma per lo più non lo è. L'orologio è un oggetto per alcuni di culto, per altro è semplicemente invece una roba funzionale che serve per sapere dove sei, quando sei in quel momento lì. Ecco, se appartenete a entrambe le categorie non mi interessa, l'importante è capire che storia ha quell'oggetto, che storia ha quell'orologio, che è uno degli oggetti che guardiamo di più probabilmente durante la giornata. Sono le 16:10 minuti, ora ve l'ho detto, questa è Radio 24, il programma è Voi Siete Qui e oggi raccontiamo la storia di Matteo, che appunto era uno di quelli a cui l'orologio proprio non interessava. Poi invece, visto che interessava suo padre alla fine, ha contagiato anche lui. 349-238-6666 per raccontare che storia ha quell'orologio, dove l'avete preso, a chi apparteneva, come ci è arrivato al vostro polso. Anche Voi Siete Qui Radio 24 su Facebook oppure sul profilo Twitter che è Voi Siete Qui R24. Quello che avete sentito in apertura era chiaramente Christopher Walken, o meglio la voce del doppiatore di Christopher Walken in Pulp Fiction, che racconta quella storia assurda dell'orologio che passa di padre in figlio attraverso, diciamo, un pertugio del tempo, diciamo così, viene salvato in quel modo. Francesca scrive: vuoi sentire anche la storia di quell'orologio che tolsi nell'estate del 2004 quando iniziai a girare senza? Francesca, sì, perché questa è un'altra cosa di cui parleremo oggi, di quelli che indossano l'orologio e quelli che non lo fanno. Filippo, orologio del mio nonno materno, sottile, semplice e non di particolare pregio. Rimesso in funzione e cambiato il cintolino, che credo non sia un errore del T9, proprio qualcuno lo chiama il cintolino. Qui è solo cinturino, però mi piace cintolino. La prima volta che lo indossai fu per andare per la prima volta al casinò di Sanremo con degli amici. Vinsi 2 milioni di lire indovinando per 7 volte il numero secco alla roulette. Da allora mi accompagna sempre nei momenti importanti della mia vita. 349-238-6666. Uno Swatch bianco comprato al Duty Free Shop di Malpensa nell'84, perché mi ero scordata l'orologio a casa. E quello era il più economico. Mai avrei pensato che sarebbe diventato un pezzo quasi così importante della mia vita. Susanna, e ancora uno Swatch col quadrante blu, cinturino elastico color metallo, preso a mia mamma anni fa, e quando lei è mancata l'ha voluto mia figlia, che ce l'ha al polso dall'età di 9 anni. Non lo toglie mai, ora ne ha 17. 349-238-6666. La storia del vostro orologio. Questa è la storia di Matteo. Ogni volta che entro in un centro commerciale, mi ritrovo fermo a guardare gli orologi nella vetrina del negozio del gioielliere. Io al centro commerciale però ci entro spesso. Ne vedo circa 6 o 7 al giorno, per lavoro, sempre diversi. Tra quella massa di persone anziane che guidano malamente il carrello della spesa, mamme coi bambini più o meno capricciosi e capi reparto costantemente impegnati a sconvolgere la disposizione delle merci, ci siamo anche noi, io e i miei colleghi. Quelle persone che, armate di palmari e tablet, annotano varie informazioni sui prodotti di cui sono responsabili. Faccio rappresentante e nello specifico tengo i rapporti di un produttore di prodotti alimentari con la grande distribuzione. A me gli orologi non dicono un granché. Lo uso da quando ho iniziato a lavorare. Piacciono però a mio padre. Si può dire anzi che sono la sua unica vera passione. Lui va a correre 3 giorni a settimana col suo migliore amico, Paolo. Si fa 15 km di buon passo, eppure non è un appassionato di corsa. Va in bici tutte le domeniche per le colline della Sardegna, ma non segue il ciclismo. A lui piacciono gli orologi. Tutti gli orologi. Ne ha accumulato un certo numero negli anni. Alcuni automatici, uno col cardiofrequenzimetro, quello che usa per correre, il Tissot con lo schermo touch. Alcuni a batteria, alcuni a molla, un paio di Swatch e altri di plastica. Alcuni antichi, di suo padre. E ne ha pure uno che davano con una rivista femminile, sarebbe da donna, ma gli piace e lo usa. E la lista potrebbe continuare. Il più prezioso se l'è comprato dopo aver smesso di fumare. Ogni giorno, con costanza, metteva da parte i soldi delle sigarette a cui aveva rinunciato. E poi si è finalmente comprato quello che ha sempre sognato, un prezioso Eberhard. Noi in casa lo sappiamo quanto ci tenga ai suoi orologi. E sapevamo che significato aveva quando alla laurea di mia sorella, della sorella maggiore, lui si è sfilato dal polso uno dei suoi preferiti e glielo ha regalato. Quel gesto valeva più di 1000 complimenti. La vita poi mi ha portato in Toscana. E ogni volta che entro in un centro commerciale vengo ipnotizzato da quella vetrina e mi prendo 2 minuti per far volare il mio pensiero in Sardegna, dove vivono i miei. Ero nella loro casa una sera, marzo del 2012. Ho aiutato mio padre a fare le scale, a sedersi sul letto e indossare la maschera per l'ossigeno. Mi ha chiesto di prendere la sua scatola degli orologi, una scatola di legno semplice in cui suo zio teneva le viti e i chiodi. Mi ha detto di portargliela e poi di sceglierne uno per me, ad esclusione ovviamente dell'Eberhard. Io non lo volevo scegliere, e mi opponevo sapendo quanto amava quegli orologi e soprattutto sapendo cosa significasse quel gesto. Lui però ha insistito, e alla fine ne ho scelto uno che mi piaceva. Faceva tanta fatica a parlare, quindi semplicemente ci siamo messi a caricare tutti i pezzi del suo piccolo tesoro e ad ascoltare in silenzio il ticchettio di ognuno di loro, avvicinandoceli alle orecchie. La mattina seguente, dopo un veloce abbraccio ai miei genitori, ero in macchina con il loro amico, Paolo, che mi accompagnava all'aeroporto di Cagliari. Qualche ora dopo ero di nuovo in Toscana, di nuovo nei miei centri commerciali. Mio padre mi ha regalato questo orologio nell'ultima volta che siamo riusciti a parlare io e lui di persona. È un orologio semplice, è un orologio con cinturino nero in pelle e col quadrante nero, tondo, molto semplice, senza grandi frontoli, senza grandi funzioni, cronometri o tecnologia. Ora l'Eberhard è sul comodino di mia mamma. Il Tissot, quello con lo schermo touch, è al polso del caro Paolo. Quello di mio nonno è a Oslo, con mio fratello maggiore. E non ricordo quali hanno le mie sorelle. Io mi fermo sempre a guardare gli orologi nelle gioiellerie. E anche se lui non è più qui, quando sono davanti a tutte quelle lancette, lui è accanto a me. E parliamo di orologi, come abbiamo fatto tante volte insieme. Tra le categorie umane in cui si divide il mondo, tipo chi vota a sinistra e chi a destra, chi mangia la trippa e chi non la mangia, chi ha paura dell'aereo e chi no, due categorie sono fortemente divise e sono chi porta l'orologio e chi non lo porta. E non si tratta solo di gusti diversi. Secondo me si tratta di un vero e proprio diverso approccio al mondo, alla realtà. Sì, lo so che sembra una banalità. Perché alla fine noi viviamo tutti nello stesso posto, regolati dagli stessi fusi orari, dallo stesso clima, dallo stesso tempo. Eppure la frattura tra chi decide di tenere il tempo sotto controllo, misurandolo con un orologio, e chi invece l'orologio non la porta, è enorme. Nemmeno io, come Matteo, l'autore del testo, ho una passione particolare per gli orologi. Me ne hanno regalati un paio nella mia vita. Uno l'ho venduto e l'altro è quello che indosso. È stato il regalo di una persona che avevo molto vicino tanti anni fa e che in qualche modo mi cambiò. Quando me l'ha regalato anni fa eravamo in auto, stavamo andando al mare verso casa sua in Toscana. Era la prima volta che facevamo un weekend insieme. Ci trovavamo su quel pezzo di autostrada in Liguria in cui all'improvviso, dopo una curva, là in fondo spunta il mare. Era la prima volta che lo vedevamo insieme e anche se nessuno lo disse, credo che ci pensammo entrambi. Era un giorno di fine maggio. Tenevamo i finestrini appena abbassati e l'aria entrava morbida in macchina. Lei mi chiese a che ora saremmo arrivati e io le dissi la solita frase generica, tipo arriveremo verso le 10, 10 e mezza. Lei si appoggiò alla borsa sulle gambe e tirò fuori un pacchetto stretto e lungo e mi disse: ecco, così non spari più a caso quando ti chiedono l'ora. Io stavo guidando, quindi lo aprì lei, me lo fece vedere e me lo mise al polso. Ricordo molto bene il modo dolce e leggero con cui me lo allacciò. Poi allontanò appena la testa, mi sorrise e mi disse: l'orologio dovrebbe stare al polso sinistro, ma non ci arrivo a mettertelo, poi ti sta bene su quello destro. Da quel giorno io non l'ho più tolto, manco di notte, nemmeno sotto la doccia. In estate mi lascia il segno della bronzatura e in inverno faccio fatica ad infilarci i maglioni, ma non l'ho mai tolto. Ho sempre pensato che se l'avessi fatto, non sarei stato più capace di rimetterlo. Sta sorridendo moltissimo Matteo nella foto, è una bella foto perché è un sorriso preso al volo, infatti è anche un po' mossa. Ha degli occhiali grandi con la montatura nera, un maglioncino a scollo a V, scollato a V con una maglietta bianca sotto, è abbronzatissimo, ha la faccia proprio scura scura Matteo e soprattutto ha la faccia da ragazzino. Pronto Matteo? Ciao Matteo! Come stai? Bene, la tua voce, scosso, ma bene. La tua voce non sta per niente vicino alla tua faccia, sembri un... Quando l'hai fatta sta foto, Matteo? Ma l'ho fatta, mi hanno fatto, i miei amici che mi stanno tutti ascoltando, mi hanno fatto una festa sorpresa di compleanno qualche mese fa, ad agosto. Ah, ok, quindi è recente. Beh, effettivamente è un po' la faccia di quello che è contento, sorpreso, che non si aspetta il tutto. Quanti anni hai tu, Matteo? Dicevi 30 anni? 30 esatti, quella era le tre candeline sarebbero per il 30. E da quanto sei in Toscana? Sono qua dall'agosto del 2007, quasi 7 anni. E come ti ci trovi lì? Alla grande. Ma sei da solo, c'hai una fidanzata che ti sta vicino e ti vuole bene, oppure sei invece un single disperato che tutte le sere si fa delle cose tipo, non so, beve degli alcolici, delle sostanze strane, non lo so, dimmelo tu. No, vivo da solo, però qua mi si è creata come una famiglia alternativa di persone che mi circondano, a cui voglio un bene dell'anima. Hai detto è Capraia Fiorentina? Esatto. Dove sta esattamente Capraia Fiorentina? Vicino a Empoli. Okay. Tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. Empoli è una zona della Toscana effettivamente poco è tipo Pistoia, no? Sono quelle zone che, cioè, della Toscana viene in mente subito Siena, Firenze, la Versilia, insomma il mare. Poi ci sono queste due province, Pistoia ed Empoli, che sono una sorta di... Empoli non è una provincia, magari gli benissimo, piacerebbe. Perfetto, probabilmente gli piacerebbe, sì. Matteo, è a metà strada tra Firenze e Pisa, per essere precisi. Tu ce l'hai al polso l'orologio in questo momento? Sì, ma non è quello famoso del racconto, non so perché stamattina non ho preso quello, ne ho preso un altro. Perché te lo togli di notte? Ma sì, perché ne ho più di uno e poi mio padre aveva fatto portare a riparare anche un orologio di suo nonno e gli avevo promesso la sera del racconto che l'avrei ritirato, riparato la volta successiva e purtroppo non me l'ha potuto dare lui, me l'ha fatto trovare sul comodino. Matteo, noi prima, quando abbiamo letto il tuo racconto e poi leggendo tutti i messaggi che arrivano, è evidente che questo del passaggio dell'orologio tra babbo e figlio è una cosa che accade, no? E noi ci domandavamo, boh, chissà perché, boh, perché non è un abito, perché sta al polso, quindi lo può mettere chiunque, perché ha a che fare, poi i più filosofici del gruppo ovviamente, Paolino Corleoni, perché ha a che fare con il tempo che passa. Tu sapresti spiegarci perché tuo papà ha deciso di lasciare a te e comunque anche ai tuoi fratelli e alle tue sorelle, mi pare di capire, quel esatto. Pezzo di sé, quel pezzo di suo modo di vedere il mondo, di misurare il tempo. Ma non penso che l'abbia fatto con l'idea di dare un segno che misurasse il tempo, voleva lasciarci quello che per lui era più prezioso, era la sua unica vera grossa passione. Eppure tuo padre faceva un sacco di robe, da quello che dici, correva, andava in bicicletta. Sì, sì, ha sempre fatto tante cose, però non si è mai appassionato, non guardava le partite di calcio in TV ma non gliene fregava niente, cioè faceva tutto ma non c'era veramente una cosa a cui si appassionasse in E maniera cosa ha più fatto tuo papà nella tua vita? Nella sua vita, perdonami, non nella tua. è stato un assicuratore per 40 anni. Ah, ok. Esatto. È andato in pensione tanto prima di mancare, oppure? No, ironia della sorte, gli hanno diagnosticato il tumore un mese prima che andassi in pensione, quindi nel 2009, inizio 2009, gli hanno diagnosticato la malattia. A febbraio è andato in pensione e poi 3 anni ha lottato come un leoncino. Senti, liberarti c'è la tua mamma invece, quello più Liberarsi la mia prezioso. mamma nel comodino, esatto, sempre. No, non lo usa. No, lo usa perché gli abbiamo detto di usarlo, che era un Ah, peccato ok. lasciarlo fermo, Certo. però quando vado a casa lo trovo sempre lì. Dove ti trovi adesso, Matteo? Sei per strada? Stai andando in un centro commerciale? Sono nel parcheggio di un centro commerciale, Qu quale? Dove? stranamente. Dove? Dici dove? A Fucecchio, la Fu. città di Indro Montanelli, visto che siete una radio con tanti giornalisti. C'è sempre Empoli? Sì, è a 2 passi da Empoli, oggi giro vicino a casa. Quanti te ne fai al giorno? 6 o 7 tutti i Sì, giorni? esatto, dipende. Poi c'ho i giorni in cui vado magari nella centrale dei centri commerciali a discutere, faccio per dire la centrale del Ok, Conad, della Coop. chiaro, chiaro, chiaro. Senti, ma cosa fai esattamente però tu? Allora, appunto, una parte del mio tempo lo passo a studiare i numeri e poi andare a incontrare, per esempio, i responsabili dei liquidi delle catene commerciali o dei dolciari, perché abbiamo prodotti sia liquidi che dolciari in azienda. Dopodiché, una volta che si contratta cosa ci deve essere gli scaffali Sei un e quali account promozioni. sostanzialmente. Esattamente, Ah, sono un ok, cioè. account, però siccome l'azienda è un'azienda media, devo anche poi andare in giro a controllare. Le aziende grandi hanno delle persone che fanno solo il controllo e persone che fanno solo il contratto. Io sono un account, ma chiaramente mi devo un po' sbrigare e fare sia le verifiche che i contratti. Ok, Che è quella esattamente a la che ora posizione. finisci, Matteo? Di solito giro fino alle 5 e poi vado al computer per altre 2 o 3 orette. Va bene, allora ti lascio andare, ti ringrazio per il Grazie racconto mille Matteo, e ringrazio a tutti voi per il lavoro buona che fate. giornata. Ciao Matteo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Qualche settimana fa, credo 2 o 3 settimane fa, avete sentito una puntata in diretta in cui una band torinese, che sono i Perturbazione, che sono quelli che stanno cantando in questo momento sotto la mia voce, hanno inaugurato i mercoledì live di Voi Siete Qui. Sostanzialmente un mercoledì a caso, senza alcun ordine, non un mercoledì al mese, non un mercoledì a settimana. Un mercoledì ogni tanto, diciamo così, qualcuno che ha voglia di suonare la sua musica, ha voglia di farlo in diretta qui a Radio 24, a Voi Siete Qui, verrà ospite del programma. La prima puntata è stata quella con Perturbazione e da lì è nato un video, grazie anche a Marco Ligabue, che ha girato, montato, e se avete voglia di vedervelo, di scaricarvelo, no? Perché è sul nostro profilo YouTube, ma l'abbiamo caricato dappertutto, su Facebook, su Twitter, oppure sul nostro YouTube, se lo trovate. Voi siete qui, Voi siete qui semplicemente, si chiama, che gestisce... Voi siete qui Radio 24. Trovate questo video che dura 10 minuti ed è proprio un piccolo live. Ci sono due canzoni, ci sono due chiacchiere con i Perturbazione, però confezionato magnificamente da Marco Ligabue. La stessa cosa accadrà mercoledì dopodomani, quando in studio verrà Di Martino, che suonerà dal vivo, verrà ripreso e poi diventerà un video. E questo da qui fino alla fine della stagione. 349-238-6666. Leggo solo alcuni dei messaggi che sono arrivati. Erano gli anni 80, avevo i bambini piccoli e stavo molto in casa. In un'asta televisiva ho comprato un orologio marcato Omega o Omega, ma ho dei dubbi sulla sua autenticità. Eppure funziona ancora adesso e sto per diventare nonna. Ciao da Giulia. E ancora, dietro l'orologio regalatomi da mio nonno 35 anni fa c'erano 4 numeri. Quando il nonno è morto li ho giocati all'otto ed ho vinto poco, ma è stato comunque bellissimo. L'ultimo messaggio con cui chiudiamo è questo qui: ho l'orologio di mio nonno morto in Siberia, antichissimo, regalatomi da mio padre quando mi sono sposato. Non me ne separo quasi mai. Grazie a quelli che hanno reso possibile questa puntata, che sono Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Hina. Grazie soprattutto a Matteo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Roberto Arciero, vengo da Bologna, vivo a Bologna. La storia di domani è la mia e parla della quotidianità e dei gesti che ripetiamo ogni giorno. Questa è la mia storia e io sono qui.